Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, la cronaca oggi offre davvero pochino, notizie o presunte tali di mercato, insomma di attendibilità molto relativa. Qualche strascico del turno di Serie B di ieri, dichiarazioni molto dure, per esempio del presidente del Mantova. Il Mantova ha perso una partita abbastanza incredibile a Parma e ha perso su un gol che era stato annullato dall'arbitro, che poi è stato convalidato dopo circa 3 minuti senza che ce ne fossero i presupposti. Sicché Fabrizio Lori, il presidente del Mantova, ha dato un po' i numeri e ha detto di aver avuto intenzione anche di ritirare la squadra. A Brescia la polizia ha sventato un'aggressione ai tifosi modenesi. Secondo la ricostruzione degli investigatori era pronto un agguato di una ventina di ultraarmati di tutto punto al casello di Brescia Ovest, dove sarebbero passati i tifosi del Modena. Insomma, più o meno varie amenità che seguono a un turno infrasettimanale. E allora questo potrebbe essere il giorno giusto, proprio perché non c'è niente di così rilevante di cui occuparsi di stretta attualità, per quattro chiacchiere come si deve con un allenatore alla finestra, anzi un allenatore in volo, e tra poco scopriremo perché. Bentornato a Gigi Cagni. Buongiorno, ciao Gigi. Buongiorno, spieghiamo subito perché. Perché in volo? Perché tra un allenatore a cui sfilano la squadra di sotto la panchina, mettiamola così, che è più elegante, come è successo a Cagni quest'anno, quasi inizio stagione, poco dopo inizio stagione era Parma, poi ha anche il problema del tempo libero. E questo tempo libero tu come hai deciso di investirlo? Beh, è una passione che avevo da tempo, quindi purtroppo con questa occasione l'ho sviluppata, cioè quello di prendere il brevetto per gli aerei, i piccoli aerei, insomma, i Piper, i Cessna. E quindi sto prendendo lezioni di volo per prendere il brevetto. E manca molto? Cioè, sì, a che punto siamo? Manca moltissimo. Ah, sì? No, perché ho iniziato a gennaio, perché prima sono stato via per far andare via il più possibile la rabbia e la delusione, soprattutto, non la rabbia, direi la delusione, e quindi sono stato in giro un po' per il mondo. Poi quando sono tornato ho detto vabbè, sviluppiamo questa passione, perché è da tempo, come ho detto, che mi piace molto, e il volo. Quindi mi sono iscritto all'Aero Club di Genova, sì. E adesso sto prendendo lezioni di volo e sto studiando, anche perché bisogna studiare, non è che c'è solo la pratica, c'è anche soprattutto la teoria. Quindi è una cosa di, ci vuole un annetto, ci vuole, dipende poi da quello che sei capace di recepire tu. È più difficile organizzare, non so, un pressing alto oppure un raddoppio o un blocco sulle pali native, o pensare al decollo o forse all'atterraggio? No, soprattutto all'atterraggio. Il decollo è la cosa più semplice, volando con il tempo giusto, voglio dire, che devi volare con le intemperie, perché poi non puoi nemmeno, perché è un volo a vista, quindi con aerei non molto grossi, quindi devi volare solamente quando il tempo te lo permette. E quindi devo dire che l'unica vera cosa difficile, soprattutto a Genova, è il fatto dell'atterraggio, perché delle volte c'è vento di traverso, quindi devi stare un po' più attento, devi avere un minimo di sensibilità in più, e questa è una cosa che acquisisci facendo lezioni. Ti manca lo stress della panchina e cerchi di compensarlo con quest'altro genere di stress, insomma. No, Gigi, non è uno stress, è una cosa, cioè è uno stress sul fatto che quando, perché ti sembra una cosa semplice, no? Perché poi la prima lezione decolli subito, ti fa decollare, e quindi sembra una cosa semplice, poi quando sei là sopra, se non c'è vento, ti sembra facilissimo, invece poi è una cosa molto difficile, bisogna stare molto attenti, e quindi è molto divertente però. Lo credo, questo lo credo. Senti, per metterti subito a tuo agio con tutti i genovesi all'ascolto, visto che nel tuo palmarès, visto che vivi a Genova e nel tuo palmarès c'è aver allenato prima il Genoa e poi anche la Sampdoria, quale delle due squadre ti è rimasta più? Che così? Non puoi farmi una domanda di questo apposta, è lì il bello, insomma. Già. Assolutamente impossibile rispondere. Sai la cosa che mi fa molto molto piacere? Sì. Io non vivo a Genova, io vivo a Zoagli, che è una chiesa sulla riviera di Levante. Certo. Sì. E quindi, però quando vado a Genova, le poche volte che vado a Genova, devo dire la verità che sono stimato da tutte e due le tifoserie. Beh. Non so per quale motivo, perché stimano la persona, non tanto magari l'allenatore. Però io sono stato in tutte e due le piazze e ho fatto il massimo di quello che ero capace di fare, e quindi hanno capito e capiscono, i tifosi capiscono, sia il giocatore che l'allenatore. Quando dà tutto, capiscono anche gli errori che può fare. Certo. Senti, no, ragioni più per non guastarsi con una, direi, di queste due tifoserie, no? Evidentemente. Ma anche perché. Ammesso che sia rimasta una preferenza, ma poi non ha nessuna importanza. No, mi piacerebbe però, insomma, visto che vivi lì vicino, quest'anno la Sampdoria sta facendo una stagione che può diventare trionfale, perché a sto punto è a un piede e mezzo in finale di Coppa Italia, e quindi sarebbe un trofeo assolutamente inatteso. Però la grande stagione la sta facendo il Genoa. Secondo te ha costruito qualcosa che può durare nel tempo, o è una di quelle avventure che, insomma, durano quello che durano, ma senza illudersi troppo? No, assolutamente non è un'avventura, perché è 3 anni. Sì, e guarda caso è una cosa che dico da tempo: il massimo di quello che puoi ottenere in una società che ha un minimo di intelligenza, che vuol programmare qualcosa, e questo mi è accaduto più di una volta, raccogli il meglio il terzo anno. Sì. C'è una società appunto che crede in te e organizza tutto quello che è il discorso fra te e loro, e tu devi avere delle qualità, e Giampiero le ha sicuramente, Gasperini lo ha dimostrato, e quindi non sarà una meteora, assolutamente. C'è una qualità di calcio anche notevole nel Genoa di quest'anno, così come c'è, e se ne è parlato in altre occasioni, come c'è per esempio a Cagliari nei momenti migliori, come c'è a Siena. Si ha quasi la sensazione che il calcio provinciale, che è sempre stato un tantinello bistrattato, ma insomma in questo periodo ancora di più, perché si guarda soltanto ormai alle grandi squadre metropolitane, che in realtà non dico abbia qualcosa da insegnare, ma abbia un senso e come da un punto di vista tecnico e tattico ancora. Ma direi proprio di sì. Ma perché? Perché riescono a far esprimere l'allenatore al meglio delle sue qualità. Mi spiego meglio: hai un gruppo di giocatori che deve avere la qualità, se no non vinci niente, non fai niente di buono. Non esiste allenatore che vince con giocatori scarsi. Certo. Quindi tu devi avere la qualità fondamentalmente. Poi e tu, se hai dei giocatori che hanno queste caratteristiche e che hanno voglia, hanno fame, tu riesci a fare delle cose che sono insperate. E guarda caso, se tu le squadre che hai nominato non hanno un'età media molto alta. No, infatti. E sono tutti ragazzi giovani che si spera sempre che poi non si guastino. Certo. E invece poi succede il contrario, come sempre, perché quando arriva il denaro, quando arriva il successo, se non hai l'equilibrio per poterlo mantenere, salti per aria. È l'unico motivo per cui secondo me stanno facendo degli errori gravi nel nostro calcio. Si danno troppi soldi a giocatori troppo giovani. Io sono perché il giocatore debba guadagnare tanto, perché se produce, quindi deve guadagnare tanto, ma il giocatore ha fermato. Quindi sono degli ingaggi di giocatori giovani che sono assurdi per tenerli legati, e fanno delle cose che secondo me non hanno una logica. Uno non può, e non è colpa del giocatore, perché a 18-19 anni non è che puoi avere l'equilibrio, a meno che non hai la fortuna di avere il genitore o l'amico o il procuratore che è di mentalità ancora all'antica, e non ce ne sono più, che ti fa mantenere un minimo di equilibrio, altrimenti lo perdi naturalmente. E però come la risolveresti, Gigi? Nel senso che se tu vuoi vincere la concorrenza, tanto voglio dire, siamo in un libero mercato, di trovare no? Un sistema un sistema di calmierare questi ingaggi ai giocatori di una certa età, e permettere anche di mantenerli i giocatori, nel senso, nella tua squadra, che non te li portino via. E questa è una cosa che devono fare nel calcio europeo. Assolutamente. Quindi studiare questa potrebbe essere una delle riforme, sostieni secondo tu, invece me, di sì. Parlare di Superlega di... No, ma perché poi li vedi i giocatori, no? Ma io ieri guardavo la B, a me mi viene da ridere ma no, no, non perché per la B, perché ma sai che ieri sera ho notato, perché guardavo poi tutto il panorama della B, non ho guardato una partita solo, sì. Ma c'era una punizione, ogni giocatore faceva quello che fa Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Eh sì. Sai che fa il passo indietro, sì, apre le gambe, sì, la punizione, fa questo atteggiamento. Poi gli avvicinano un attimo, hanno tutti i capelli, sono tutti pettinati. Mm. Sono come se andassero a ballare. Però, si preparano prima della partita. Io non so, io ho fatto il calciatore, a me non è mai successo, sì, che prima della partita di guardarmi allo specchio. Cioè, mi diventava difficile. Adesso hanno tutti questi atteggiamenti, tutte queste cose. Ma questo è vero, viviamo anche nell'epoca dei reality, quindi ti puoi immaginare. Però è anche vero, io voglio provare a fare l'avvocato del diavolo, è anche vero che quando arrivò Sivori negli anni 50, e tu hai abbastanza anni per ricordartelo come me, Sivori arriva in Italia nel 57 nel giro di... certo, non c'era tutta la televisione di oggi, allora si andava a foto e a qualche raro filmato, però nel giro, non dico di giorni, forse neanche di settimane, ma nel giro di qualche mese, tutti noi ragazzini, o comunque tanti ragazzini, giocavamo con i calzettoni cosiddetti alla cacaiola, come li chiamava Brera, no? Cioè, avevamo i calzettoni giù perché così giocava Sivori. Poi allora, arrivò Mariolino, Corso o no? Non so a che ruolo tu giocassi. Ma che ruolo giocassi? Adesso non cominciamo a metterla sui quarti di nobiltà. I difensori non lo facevano. No, certo. Il centrocampista lo faceva, chi lo faceva? I giocatori, sì, certo, che si sentivano di avere un minimo di qualità tecnica superiore e quindi scimmiottavano. Sì, voi. Scimmiottavano. Stiamo parlando di qualche E prendevamo anche molte più pedate, intendiamoci, con i calzettoni giù, perché in effetti è vero. No. Però, però alla fine, quello che contava, i valori rimanevano, sì, potevi scimmiottare in quel senso, ma i valori rimanevano. Certo. Oggi io ti giuro, faccio fatica a dire a un ragazzino: guarda la partita e prendi esempio dai giocatori che stai guardando. Faccio fatica, perché danno fastidio a me certi atteggiamenti. Questi. Il gol, sulle punizioni. No, dopo il gol ce l'hai raccontato l'ultima volta. Quando vedi il giocatore che ha fatto gol, che si percuote il petto e abbraccia la maglia ti vengono i vermi proprio. No, mi viene da ridere, perché sì, uno può fare quello che vuole. Mm. Però se tu dai la pacca sul cuore e baci la maglia, devi starci almeno 3-4 anni con la squadra lì, non 3 mesi. Certo. Sai cos'è? Che percuotendosi il petto furiosamente a quel modo, non capisci mai se si percuotono dalla parte del cuore o da quella del portafogli, no? Che è vero che non c'è sotto la maglia, ma insomma, idealmente non è difficile ricostruire. Vedo che sono i temi di costume quelli che ti interessano di più. Allora, ne ho messo da parte qualcuno su cui conversare. Sei già in partenza per cioè stai già per decollare o possiamo trattenerti qualche minuto ancora? Alle 4:30 c'è. Allora c'è tempo e quindi possiamo andare in onda. Non so se oggi dai consigli da estrarre possiamo aggiungere anche quelli sui cieli, però in tuo onore. Però insomma, allora continuiamo questa conversazione con Gigi Cagni e io ti propongo 3-4 argomenti in ordine sparso. Il primo, non in ordine di importanza ma di curiosità, è il Prato di San Siro. Ti leggo qualche riga che ha scritto ieri Vittorio Zucconi su Repubblica, che ho trovato particolarmente gradevoli, come sempre la sua prosa, oltre che a denunciare un fenomeno che diventa, cioè, che ormai è ridicolo da tanti anni, ma insomma che più passa il tempo e più lo diventa. Per cominciare a capire, scrive Zucconi, che cosa sia accaduto al calcio italiano e perché nessun nostro club sia più all'altezza delle grandi società europee, basterebbe rivedere Inter Fiorentina e contare quante volte i giocatori e pure l'arbitro siano finiti con il culetto per terra senza che nessuno li toccasse. Per restare in piedi su quel prato o quella cosa che per Prato passa, grazie a generose passate di vernice verde e sabbia colorata, i calciatori dovrebbero calzare ramponi da ghiaccio, perché nessun tacchetto regolamentare offre sufficiente trazione. Nell'attesa che la scienza produca in laboratorio calciatori con 4 piedi e trazione 4x4, la scala del calcio resterà, anche con tutte le pezze e i tupè del mondo, un sottoscala. In Italia, la nazione dove si spendono betoniere di soldi per ingaggiare rottami come Vampeta e Rivaldo e per pagare i Recoba e i Quaresma, per affittare Beckham per 4 mesi, dai mondiali del 90 non si costruisce più uno stadio moderno in attesa di quello promesso dalla Juve. In effetti io credo che ad alto livello europeo un'oscenità come San Siro, che dura così tanti anni, Gigi, non si sia mai vista. Sì, ma tornando al discorso, però, qual è il problema primario? Secondo te i nostri presidenti di tutte le città d'Italia non vorrebbero costruire degli stadi per far tornare le famiglie a vedere, sì, il calcio? Sì, e dov'è il problema? La politica. perché Zamparini da mestre è andato a Palermo a fare il presidente? Tu dici che c'è... Ma sì, ma perché sono, quando entra la politica in queste situazioni non ti permette di costruire, di fare, di progettare. Una delle salvezze del calcio secondo me è questo, dare ai presidenti l'opportunità di costruire degli stadi di proprietà. Certo. È chiaro che loro ci vogliono guadagnare, è normale, ma mi sembra che poi il guadagno sarebbe reciproco. Nel senso che si lascerebbe un impianto. Tu non puoi vedere uno stadio come quello di Brescia. Mm. Cioè, ti dico, non, ti viene il magone. Mm-hmm. Cioè, io sono di Brescia, ho giocato nel Brescia 14 anni. 262 partite nel Brescia e 262. Quello stadio sembra uno stadio dell'est. È una cosa vergognosa. Vergognosa, ma cosa pretendono poi? Mm-hmm. E quindi questo è una cosa da risolvere. Senti, come sempre è inutile che stiamo a fare dei discorsi, no? Non risolviamo mai niente. Ne parliamo tanto, noi parliamo moltissimo. Siamo una nazione che parla tanto. Abla, abla, come c'è di Herrera. Siamo molto bravi a parlare. Abla, abla. Ma senti, siamo anche bravi a trovare le soluzioni, perché non è che non siamo capaci. Solo che poi non le facciamo, però. Però che poi si incartano lì. Hai detto di politica. Io so che tu sei molto sensibile a questi... a questi argomenti, a queste storture. Non dire, scusami, ti interrompo, ma non dire che sono di sinistra perché non sono più di niente. No, non intendevo questo. No, perché lo sono stato, cioè, non lo sono lo più. Sei stato ed era notorio. Adesso, veramente oggi come oggi dico andatevene tutti. Sei oltre. Senti, il mondo politico ha dato molto alla lontana una stupenda prova di sé la settimana scorsa, a quanto si è letto sui giornali, perché la mattina di... Roma Arsenal, fuori dal CONI c'erano 40 auto blu. Rido per non piangere. Beh, ma pazzesco, cioè questa è una... No, ma non è il problema quello delle 40 auto blu. Per andare, non vorrei che qualche ascoltatore non avesse letto la notizia, gliela raccontiamo brevemente. Le auto blu erano 40 autisti di 40 onorevoli o parlamentari o quello che si vuole, diversi, che erano stati mandati in missione a ritirare il biglietto gratis per la sera per Roma Arsenal. E questo poi era... Vedi, il problema non è le 40 auto blu, non è un problema, perché se tu, io ti scopro 40 auto blu e vai a prendere il biglietto, hai consumato la benzina con i soldi nostri, tu te ne devi andare, ti devi dimettere, fine. La cosa più bello sarebbe, no? Io certo. Ti prendo, che tu sbagli, tu te ne vai, come fanno in tutti i paesi democratici del mondo. Perché si permettono di fare questo? Perché tanto non vengono mai colpiti, presi non vengono mai colpiti, non succede mai niente, nessuno si dimette, nessuno se ne va, nessuno chiede scusa, è tutto così. E allora come fai poi a pretendere che il cittadino normale segua le regole? Come fai? Diventa un po' difficile. È impossibile, se tu non dai l'esempio. A me viene da ridere, oggi guardavo la televisione, il telegiornale, allora a me vengono a dire di spegnere il televisore la sera, di spegnere il LED. Sì, per ragioni di consumo. Hanno fatto vedere oggi che c'è qui a Genova il mercato ortofrutticolo, che è non so quanti anni costruito, mai usato, con tutte le luci accese tutto il giorno. Come Gigi, al di là del fatto poi che hanno dimostrato, hanno fatto vedere che a Montecitorio non fanno la differenziata. Cioè, ne aggiungiamo una dietro l'altra, certo. Come fai a pretendere che il cittadino poi segua le regole, certo, rispetti e che faccia i sacrifici? Non c'è dubbio. Come fai a pretenderlo? Io, Gigi, presto ti girerò, nel senso migliore del termine, a qualche altro programma, no, di Radio 24 che abbia uno spessore diverso da questo. Noi rientriamo sempre però un po' a questa maniera nel nostro orticello. Mi interessa molto un'opinione tua, cioè di uno che è dall'88 che allena e che prima si è fatto 500 fischi a partite in carriera. Com'è possibile che un tempo si giocasse, non dico si vincessero, ma si giocassero, e si vincessero anche tra l'altro, i campionati con 16 giocatori, 18 a esagerare, e oggi non ne bastano 26-28 perché l'incidenza degli infortuni è diventata assolutamente spaventosa? Cioè, dov'è l'errore principale di questa catena di infortuni sempre più gravi, tra l'altro, con prognosi sempre più lunghe? Sono tanti i fattori, però continuano a dire che il calcio è molto veloce, si gioca tanto, ed è vero. Però io continuo a dire le stesse cose. Secondo il mio punto di vista, che fa parte di quello che sta accadendo, ma io lo metto davanti. Se tu hai un calcio che è così veloce, giochi tanto, il corpo non è una macchina perfetta. Quindi tu, il tuo corpo, devi pensare che rimanga più in salute possibile. Quindi fare una vita che è il massimo che puoi dargli, sì, per fargli ottenere la salute. E quindi l'alimentazione, il riposo sono determinanti. Quando io leggo che finita la partita, tutti i giocatori sono in giro per l'Italia, vanno in discoteca e chiudono le discoteche alle 4 o 5 di mattina, o addirittura durante la settimana, che vanno a dormire tardi, che fanno certe cose, l'alimentazione non la guardano tanto, sì, allora tu non puoi pensare che sia solo perché il calcio veloce si gioca tanto, se tu il corpo non lo accudisci come deve essere accudito. Quindi secondo me c'è una percentuale molto alta di irresponsabilità del calciatore. Sì, del calciatore, ma questo, sì, gli viene insegnato questo, perché sai, se tu pensi che nelle scuole mettono solo adesso il discorso di insegnare l'alimentazione come educazione civica, diciamo, sì, in generale, sì, e allora noi siamo un popolo così, che se siamo un popolo che l'alimentazione mediterranea è la migliore, quando è dimostrato che se tu mangi 100, 150 grammi di pasta il resto diventa grasso, e non lo usi tutto, questo diventa difficile poi. Quindi, ritornando al discorso, secondo il mio punto di vista, basti vedere che ci sono calciatori che giocano 50-60 partite all'anno, tipo Zanetti, e non hanno mai infortuni. Quindi, ha un motivo. Secondo me Zanetti va a dormire alle 10. Sì, secondo te sì, sì. Va a letto prima di Adriano, probabilmente. No, non è da escludere. Senti, tu stai mettendo su una china pericolosa, perché io sto leggendo un sacco di messaggi che arrivano come sempre. Per esempio, Andrea Macerata scrive: se Gigi Cagni si presentasse in politica, il mio voto sarebbe assicurato. Quindi sta attento. No. Sta attento a come. Sì, sì. A come stai andando? Arrivano un sacco di complimenti per te. Arriva anche un ascoltatore genovese che scrive: e poi non dite che i genovesi sono taccagni se tienen le luci accese anche di notte, che questa, anche questa volete carina. No, di giorno, non di notte. Sì, no, di giorno. Infatti ho letto male io, la cosa mi è slittata. E ci stiamo avviando alla conclusione di questa chiacchierata. E mi piacerebbe ancora soffermarmi su un aspetto, che è questo. Si è detto, e probabilmente è vero, io ci credo, che una delle differenze tra il nostro calcio e quello, per esempio, britannico, dopo quest'ultimo confronto articolato, è la semplicità con cui vivono il calcio lassù, e cioè il fatto che questo, per esempio, lo testimoniano Vialli, lo testimoniano quelli che hanno giocato e allenato di qua e di là, e cioè la differenza. Lo stress che c'è qua e che non ce l'ha, che fa da moltiplicatore di fatiche, tensioni e tutto il resto, è una cosa che condividi o no? Ma condivido, perché là non ci sono 5 quotidiani sportivi, perché non ci sono, non so, migliaia di trasmissioni regionali, provinciali, nazionali che parlano di calcio dalla mattina alla sera. Come faranno senza la moviola gli inglesi, a proposito? Come faranno a campare? Riempiono gli stadi. Quindi, se non parti dalla cultura della sconfitta, io ci ho pensato tante volte, devono trovare anche qui, secondo me, un sistema, un anno fare un campionato senza retrocessioni, senza niente, solo magari la vittoria del campionato, forse, non lo so, ma trovare una formula che tutti giocano tranquilli, sereni, non c'è problema, facciamo divertire la gente, perché se tu parli con qualsiasi tifoso e gli chiedi: ma tu preferisci che giochi bene o che perda? Proviamo. Che vinca giocando male. Facciamo questo test. Certo. No, te lo dico io cosa ti dico. Certo. Poi sai, dopo c'è Sacchi che dice che sì, chiaramente se giochi bene è inevitabile che vinci. Sì. E questo vorrei poi, non è sempre così. No, non risulta. Anche se anche a me piacerebbe che fosse così. Ma siccome noi siamo legati al risultato, troppo legati al risultato, è chiaro che non vedi il bel calcio e non ti diverti. Se poi alla domenica, o ormai domenica dire troppo perché si gioca tutti i giorni, se poi tu ti fermi mezz'ora a far vedere un'azione alla moviola e a criticare l'arbitro invece di far vedere delle azioni importanti, far vedere delle cose che sono belle, che avvengono, far vedere cose tattiche, tecniche, perché dicono che la gente vuole questo. Io vorrei vedere cosa vuole la gente, mi piacerebbe molto. anche a me, però è vero che la gente bombardata e assuefatta da 20-30 anni di questa sbobba, alla fine probabilmente si è rassegnata davvero a volere questo, perché non sa più che cosa sia l'altro. Gigi, scusami, ti faccio una domanda. Ma quando dicono che le trasmissioni reality che stanno facendo è perché questo vuole la gente, ma noi siamo 60 milioni di abitanti, quanti guardano la televisione? Pochini, in effetti. Allora, tu mi fai la percentuale su quelli che guardano la televisione. Ma prova a fare un sondaggio sui 60 milioni di italiani. Quanti vogliono i reality o altre cose? O quanti ne vorrebbero altre di cose? Per vedere poi qual è la percentuale vera. Perché è tutta una questione che ti... Secondo me la verità non la racconta mai nessuno. E questo è il problema che abbiamo in Italia. Sarebbe così bello raccontassero la verità, la sopporteremo di più. Certo, okay. Tu oggi non è che ci sei andato leggero nel raccontarla, è tant'è vero che i messaggi come quello che ti ho detto prima stanno aumentando rapidamente di numero. Io te li metto da parte, perché la prima volta che ci vediamo o te li giro a qualche indirizzo o te li spedisco in volo, guarda, così mentre l'istruttore di fianco ti sorveglia, tu magari butti un'occhiata a questi sms. Gli amici qua che lo sanno, che mi dicono dove volo, perché loro vanno dall'altra parte, stanno dicendo. Senti, sono davvero molto molto lusinghiere e mi farà piacere trasmetterteli. Siamo un po' in ritardo per aggiornare i mercati e tu sei quasi un po' in ritardo per partire. Grazie a Gigi Cagni. Grazie a te. Buon pomeriggio, un abbraccio sincero e affettuoso a una persona di questo spessore. A scorrere mail e sms, c'è chi Cagni lo vuole sindaco, c'è chi lo vuole presidente di Lega, c'è chi lo vuole presidente di federazione, insomma c'è Elio da Pescara che scrive Cagni for President. C'è un magnifico messaggio firmato Francesco Milano che dice: alcuni anni fa ho avuto il piacere di assistere a un allenamento del Piacenza guidato da Cagni. La sua educata durezza mi ha fatto pensare che se avessi avuto un figlio calciatore lo avrei voluto allenato da lui. Questo credo che sia quello che tra tutta questa posta che inoltrerò a Gigi Cagni, sia questo credo quello che gli farà maggiormente piacere. Prima si è parlato di stress, in maniera non so dire quanto propria, visto che si parlava di calciatori italiani più stressati rispetto agli inglesi o ad altri, insomma, o di altre nazioni. Okay? Ho ripescato anche in questo caso una lettera firmata Antonio Durante, che tra altri passaggi ha scritto nei giorni scorsi. Le ricorderei una delle poche affermazioni condivisibili di Agroppi, ed è vera, è una citazione testuale, non male anche una delle poche affermazioni condivisibili. Calciatori stressati, disse Agroppi, stressato è il mio cognato che lavora alle acciaierie di Piombino per 1.200.000 lire al mese, giusto per rimettere in quadro e in asse le cose. Tocca a Lanfranco, chiamato da Roma, buongiorno. Buongiorno, un saluto a tutti. Vorrei parlare di un aspetto secondo me non secondario nel calcio e mi riferisco ad Ancelotti, che a me sembra un allenatore che rispetta la sua squadra e anche i giocatori. Fa giocare Inzaghi con Profitto, ha segnato 300 gol già, anche se c'è un ingorgo all'attacco del Milan, e quindi non pensa all'età di Inzaghi. Noi abbiamo per esempio in altre squadre, mi riferisco a Roma, sia Spalletti e Roma, sia Rossi, Lazio, allenatori secondo me complessivamente validi, cioè tra il più e il meno sono validi. Uno ha Montella, che pesa molto sulla società per ingaggio, gioca 3 minuti quando gioca e 5 minuti. L'altro è il fratello di Inzaghi, che ha segnato tanti gol. E poi c'è un altro aspetto internazionale che in questi giorni è sugli occhi di tutti. I Chelsea inglese hanno esonerato Solari, allenatore che ha vinto anche il campionato in Brasile, però mi sembra estraneo alla cultura del calcio inglese e non solo alla cultura del calcio. Ha messo da parte Drogba. L'allenatore giramondo olandese che c'è per qualche mese a Chelsea l'ha fatto giocare con Profitto sia nelle coppe e sia in campionato. Allora, questi allenatori non dovrebbero riflettere meglio prima di mettere da parte dei giocatori, anche giovani che non possono iniziare e altri che dicono che sono anziani e non possono dare nessun apporto? Dovrebbero, Franco, non è così semplice. Ci sono giocatori che invecchiano bene, come per esempio Inzaghi, e altri invece che perdono le loro caratteristiche principali, ed è il caso per esempio di Montella, altre che si perdono per ragioni, non so se anche extracalcistiche, ma insomma di sicuro Inzaghi, l'Inzaghi Junior da giovane aveva più qualità tecniche del fratello addirittura, e poi però invece si è smarrito completamente, perché? Perché non ha nemmeno una parte del carattere del fratello maggiore, del temperamento, insomma, sono tutti fattori di cui tenere conto. Mi è piaciuto che lei Scolari l'abbia ribattezzato Solari e dato il suo accento romano, già, mi sapeva tanto di Sola, no? come tecnico, dal suo punto di vista, sia ben chiaro, non come, non certamente come giudizio. Gagliani, arriva una dichiarazione di Gagliani in cui definisce una buffalona di primavera l'ipotesi della Superlega annunciata ieri. Non esiste nulla, non siamo in contatto con i vertici europei come qualcuno ci ha attribuito, non ne abbiamo mai parlato, non solo, ma sono stati già venduti i diritti della Champions League per i prossimi 3 anni con questa formula, e quindi è impensabile che ci sia l'intenzione di cambiare. Michele ha chiamato da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, dica. La chiamavo per un intervento relativo a quello che viene ad instaurare, in sostanza il rapporto che si crea tra i giocatori e l'arbitro in campo domenica dopo domenica. Sembra in alcune situazioni veramente di assistere alle guardie contro i ladri, dove i giocatori cercano ogni singolo modo per sfuggire allo sguardo attento dell'arbitro, e l'arbitro fa la figura del grande punitore che andare a prendere insomma le magagne dei giocatori. Quindi è spontaneo il confronto con il rugby, sport del quale ormai tanti si riempiono la bocca, ma che secondo me ha un rapporto molto più maturo e, come dire, da persone adulte tra i giocatori e l'arbitro. Non so se lei ha mai assistito a una partita di rugby o ne conosce qualcosa. Certo che ne conosco, e mi piace dal punto di vista della lealtà, non c'è nemmeno il paragone con il calcio. Direi che è sempre stato così, ma guardi che io non trovo particolarmente degenerato il rapporto tra giocatori e arbitri che lei denuncia come cioè la degenerazione così attuale, nel senso che temo di non vederci purtroppo nulla di nuovo. Poi è ovvio che i cialtroni si specializzano sempre più nel buttarsi, no? nell'autosgambettarsi, nelle cose, ma anche qui non è inedito, perché se si va indietro nel tempo se ne ricordano di queste cose, di queste furbate. Quello che invece cambia e certamente migliora è la tecnologia, e la tecnologia oggi ti permette di vivisezionare tutto quello che accade, non solo in un'area di rigore ma in un campo in generale, sicché è se ne vedono di più, ma non creda che una volta se ne facessero poi così tante di meno. Da Udine, Claudio, buongiorno. Sì, buongiorno. 2 cose velocissime. Dica. Una, per riprendere il discorso di Cagni del lato blu, ricordo che ce ne sono 650.000 in Italia, eliminandone 500.000 con quello che costano si potrebbero mantenere almeno un paio di milioni di persone che hanno perso il lavoro, che perderanno il lavoro in questi mesi. Io non so fare i conti, mi fido dei suoi, non so quanti posti di lavoro si recupererebbero, certamente si eliminerebbe uno spreco che è una vergogna assoluta. Pensare poi, come è stato denunciato dalle Iene la settimana scorsa, perché è merito loro quell'inchiesta, che 40 di queste 650.000 la mattina di Roma-Arsenal erano rispettosamente in fila, ovviamente con tanto di autista, sotto gli uffici del CONI per ritirare i biglietti omaggio della sera, è veramente qualcosa di ripugnante, soprattutto in un momento del genere. Mi scusi se l'ho interrotto e continui. No, senz'altro, quello è una cosa vergognosa. Posso dire, come testimonianza diretta, che chi è povero prende sempre quel posto, perché mi è capitato di essere invitato anche qua a Udine nel campo, e quindi oltre ad avere il biglietto gratis anche il mangiare e bere gratis, vabbè, lasciamo stare. Un'altra cosa stupida, però mi interessava, diciamo così, evidenziare il discorso che i giocatori che scivolano non è dovuto solo ai campi, che sono vergognosi specialmente in Italia, ma se lei ha notato scivolavano anche a Manchester, perché adesso i giocatori usano le nuove scarpe che hanno dei tacchetti che sono ridicoli, sono dei tacchetti a mezzaluna di plastica che non servono per giocare nei campi. Se usassero i vecchi tacchetti, o a 8 quelli, diciamo, per i campi pesanti, o 16 quelli di plastica per i campi normali, asciutti o duri, le garantisco che non si lavorerebbero in questa maniera qua. Perché usano queste scarpe nuove che costano l'ira di Dio, che però non pagano niente per me. io credo che qualcosa di vero ci possa anche essere, perché non è la prima volta che lo so. Io ormai purtroppo le scarpette da calcio non le provo più, quindi non le so dire, ma credo che qualcosa di vero ci sia, ma certamente non è questa la spiegazione, al massimo una concausa, perché tra qualche scivolone che si può vedere in giro, si è visto anche a Manchester, ma che può far parte di una serata umida o di altri fattori, e il fatto di doversi preoccupare prima dell'equilibrio che poi della giocata, come era domenica sera a San Siro, direi che c'è un abisso. Torniamo in onda, ogni tanto arriva anche qualche messaggio imbecille, questo va messo nel conto perché se no altro salva la statistica. Per esempio nel rugby, che lei ama tanto, è uno sport che usa la moviola, come la mettiamo? La mettiamo che il rugby non usa assolutamente la moviola, il rugby usa un fotogramma per stabilire se meta o meno, ma non si permette di entrare a condizionare o a rivisitare le decisioni che riguardano il gioco, riguarda soltanto la meta, esattamente come il calcio intende fare con i giudici di porta, oppure come potrebbe funzionare la moviola se servisse per stabilire se un pallone è gol o non è gol. Il problema è che la moviola per stabilire se un pallone è gol o non è gol non serve nel modo più assoluto, serve soltanto se il pallone è raso terra, ma poiché la porta è alta 2,44 m, ci sono almeno 2,40 m che resterebbero scoperti, quindi questa è una pura e semplice idiozia. Stefano dalla provincia di Rimini, buongiorno. Buonasera, dottor Garanzini. Buonasera, ma non è ancora così buio, però se vogliamo. No. Volevo tornare sul discorso dei 300 gol di Inzaghi. Sì. Ho fatto una ricerca, mi risulta che anche Del Piero le ha raggiunti. Fra l'altro la mia ricerca mi porta a 301, c'è un gol contestato col Brescia, diciamo 300. Era bello, insomma, che questi due calciatori venissero celebrati in egual misura, perché sono eccellenze che credo che l'Italia debba così... No, portare ad esempio. Ma io credo, ascolti Stefano, io ho l'impressione che abbia sbagliato i conti, perché mi devo fidare dei numeri che ho letto nei giorni scorsi e che mi pare danno Del Piero a 285, 87, qualcosa di questo genere. Se poi gliene vogliamo regalare qualcuno per fare la festa insieme, facciamolo pure, però non mi risulta. Lei da dove li ha tirati fuori questi numeri? Dal giornale le ho anche, fra l'altro, qui. È chiaro che qui si parla di under 18, ma credo che equivalga a una C1 l'under 18. Perché ho consultato Stefano, non sono importanti. Sì, però io le garantisco che tra... Insomma, che l'attenzione mediatica di cui è circondato Inzaghi e quella da cui è circondato Del Piero, non credo che Del Piero si possa lamentare, no? Che quindi sia, come dire, il parente povero in questo caso che viene misconosciuto, a cui non vengono riconosciuti dei trionfi, sicché io credo proprio che questi numeri che a lei non siano esatti, e stia pur certo che quando arriverà quel numero anche per Del Piero credo che a grandi linee ne sentiremo parlare. Mi stavo dimenticando il ripasso di storia, sicché Il sembra ieri di Nicola Filippone. Sembra ieri. 18 marzo 1979. Il derby di Milano trova il protagonista che non ti aspetti. È il mediano rossonero Walter De Vecchi, autore, con due conclusioni dalla distanza in fotocopia, di una doppietta che permette alla squadra di Lidl di afferrare in estremis un insperato pareggio, dopo che i nerazzurri si erano portati sul 2-0 con le reti di Oriali e Spillo Altobelli. Il punto guadagnato nel derby consente al Milan di non perdere terreno, lasciando a tre lunghezze il sorprendente Perugia di Castagnier. Lo scudetto della Stella, atteso per 11 anni, arriverà matematicamente il 6 maggio per effetto di uno 0-0 contro il Bologna, nell'ultima esibizione a San Siro di Gianni Rivera. Sono passati un sacco di anni, esattamente 30. E fu lo scudetto della Stella quell'anno, dovuto in buona parte proprio a quella doppietta irripetibile, che infatti non fu mai ripetuta, di De Vecchi con due destri da lontano. Gagliani avverte i tifosi del Milan, si aspetti in un mercato estivo esile, anzi esilissimo, esangue, con scambi di giocatori ma con pochissimo movimento di denaro, a parte poche società. Questo è poco, ma è più che sicuro. Tocca a Cosimo, ha chiamato da Matera, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Senta, io sono un tifoso dell'Inter. Sì. Che un pochino le mie aspettative sono andate deluse, perché ne riponevo tante su Mourinho. Ho fatto un po' di conti e secondo me è stato un pochino sopravvalutato, perché con più spesa è fallimentare rispetto a Mancini, meno punti in campionato, eliminato dalla Coppa Italia, un cammino in Champions peggiore. tutte le scelte di inizio anno, il 4-3-3, Quaresma, Mancini, Ibrahimovic, stavano portando in una brutta direzione, fin quando ha fatto un passo indietro e ritornare al modulo a rombo di Mancini. Perché non se ne parla? E non so se lei è d'accordo. Salve, buona giornata. Buona giornata a lei. Dire che non se ne parli mi sembra abbastanza singolare. Certo, non se ne può parlare usando l'aggettivazione sua, perché lei l'ha definita fallimentare. Beh, insomma, questa non mi sembra una stagione fallimentare. La stagione, se mi parla della gestione europea, considerando il girone di qualificazione, fallimentare forse è un po' approssimato per eccesso, ma comincia a poterci stare. Se ci mettiamo tutta la stagione intera no. Il ragionamento di fondo è ampiamente condivisibile, anzi, con me sfonda, ma proprio una porta spalancata da tempo. Grazie Cosimo, andiamo a Milano da Marco, buongiorno. Sì, Garanzini, buongiorno. Dica. Niente, il mio intervento era relativo... Ma sì, anche un po' si può rifare anche all'intervento del signor Cagni effettuato prima. Diciamo che la cultura del lamento in Italia, a mio avviso, trova sempre terreno fertile, sia per la lamentela fine a se stessa che la lamentela attesa a ottenere un qualche vantaggio. Anche se l'intervento del signor Cagni è stato comunque molto pacato, però questo riguardo anche la miriade di trasmissioni televisive che hanno attecchito in Italia, dove fioriscono professionisti di dubbia provenienza, che non conoscono nemmeno il periodo ipotetico, con lo scarso utilizzo del congiuntivo che fanno, e voglio dire la moviole, le contromoviole, cioè la lamentela impera in Italia e a qualunque livello, e lo vediamo poi soprattutto in questo periodo storico di crisi, voglio dire anche in altri settori. Io non riesco a capire perché ci si debba sempre lamentare di un qualcosa e non sia mai poi costruttiva come critica, voglio dire, se noi togliessimo le lamentele in Italia, io credo che il 90% delle persone non parlerebbe più. Vabbè, però dopo un minuto e mezzo di questa cosa, questa teoria sulla lamentela, un esempio veloce possibilmente? Un esempio veloce di lamentela fine no, a se stessa? No, concreto, cioè a che cosa si riferisce? Non ho capito. Ma mi riferisco per rimanere nel calcio, voglio dire. Anche soltanto al lunedì, cioè se noi togliessi il lunedì in Italia è assurdo, cioè voglio dire non si parla del calcio ma della partita, ma la lamentela sull'arbitro, faccio per dire, sì, capito. E da lì tutto il resto, voglio dire, ma perché secondo me sta nel DNA dell'italiano medio di lamentarsi di un qualcosa. Se togliessimo la possibilità all'italiano di lamentarsi, credo che sarebbe finita, cioè non parlerebbe più. È così, va bene, no, ma in buona parte è vero. Marco, mi sembra sia sparito l'altro ascoltatore, sì, è caduta questa linea. E allora, come non detto, allora cosa facciamo? Abbiamo un minutino circa. Beh, intanto c'è un brevissimo frammento di Mascara. Non abbiamo mai sentito, credo, in questo programma la voce di Mascara. Ora, no, non è un comizio come quello di Cagni prima, però è un delizioso, sia ben chiaro. Ma è un frammentino, sentiamo la voce di questo artista del tiro in porta. Non c'è nessuna spiegazione, è un tiro che mi piace farlo, e quando vedo la palla rimbalzare in un certo modo, senza pensarci, calcio in porta. Beh, insomma, speriamo lo rifaccia altre volte, anche se questa secondo me è la ricostruzione del primo dei gol, cioè quello di Palermo. Domenica ha fatto qualcosa di molto più mirato e di molto più pensato, sempre con l'istinto, ma con tutta un'altra intenzione, secondo me. Poi in realtà il gol l'ha fatto lui, beato lui. Da Milano, Claudio. Sì, buongiorno, dottore. Dica. Senta, no, intanto volevo parlare un secondo di Ibrahimovic, ma volevo ringraziarlo per la trasmissione, sembra ieri, perché mi viene il magone quando sento come oggi la storia dei vecchi, ma il magone non perché sia milanista, ma perché c'ero, come c'ero la partita del Celtic-Milan, ecco. Vabbè, comunque a prescindere da questo. No, Ibrahimovic sentivo oggi che pare che vorrebbe andare via dall'Inter perché dice che l'Inter non può vincere la Coppa dei Campioni. Non so se condivide, ma secondo me dovrebbe imparare Ibrahimovic a giocare un po' meglio lui, perché io sinceramente nelle partite importanti lo vedo poco. Va bene, grazie Claudio. è una vecchia storia annosa. Io lo vedo segnare poco, ma lo vedo giocare poco, no, perché come ha giocato a Manchester, averne di trascinatori così. Poi cioè, è un trascinatore che quando arriva là davanti non è irrorato, avrebbe detto Brera, e sbaglia le cose più facili. Lo so, magari ce ne vorrebbe uno a suo fianco, tipo Creppo, che invece la non trascina, ma là sotto poi la palla la butta dentro, ma Creppo non è nelle grazie del profeta. Abbiamo concluso anche per oggi, quindi grazie a Pietro Lacorte in regia, a Flavio Suardi in redazione, appuntamento a domani.